posizioni dove non mi ostacola, però accendere e spegnere tutte le volte mi devo arrampicare, e quindi ho preso di quelle TP-Link presa, praticamente si collega al wifi con un'applicazione e la spegni e l'accendi col telefonino, quindi anziché salire e spegnere levi corrente direttamente. Capito. Niente, io ci ho preso la briga di prendere quelle luci a LED che l'ho messo dentro una armadio a muro, però quelle funzionano a batteria, e poi ho 5 faretti piccoli che quelle le voglio mettere tutta la casetta e anche l'esterno. Poi c'ho un faro grande, ma la luce arriva anche abbastanza, in giardino ne ho 5 lampioni a voglia. E vabbè, abbiamo fatto i lavori in sta casa, mi hanno dato via, poi è stato trasloco con 2 traslochi. Guarda, ho fatto 3 traslochi in tempo di 2-3 mesi, per carità, basta, non aggiungiamo. Lo credo bene. Io lo stesso spero di non farne più, anche se poi ogni tanto qualche cosa esce sempre, tipo biancare, eccetera, quindi quelle cose le devo fare io. È ovvio. Ma io quando c'è amico, io ho avuto una bella operazione, ho avuto, guarda, e ho aperto davanti, dietro, per carità, e mi ero messo una gabbietta a titanio, tiranti, e tante belle cose. Io facevo 2 passi, mi c'erano troppo dire, dovevo sedermi, non ce la facevo più a camminare, mi sono deciso, prima di ledere il disco attaccato alle rocciate che ho operato a gennaio, l'anno scorso, poi tutte e 2 gambe mi facevano troppo male, non riuscivo a camminare, e sono partito l'anno scorso a aprile e ho fatto l'altra operazione, 7 ore sono operatori, bombarda. Quindi un po' nel deserto, giustamente, secondo se fai pizzi, eccetera, ma molte cose ce le faccio lo stesso, non mi do per vinto, capito? Vabbè, ma senza esagerare né strafare, perché con queste cose che mi dici, insomma, non te lo fa fare nessuno, piano piano fai solo le cose che ce la fai, che ti, insomma, ti dilettano e non ti stancano, e poi già si aggiusta tutto, vedrai, Tony. Adesso con la bella stagione, giornate lunghe, io ho voglia di fare cose, d'inverno è più difficile, poi fa freddo, umido, e quindi anche io scendo meno giù a fare le cose, in garage quando scendo che ci sto quell'oretta c'è una stufetta e me l'attacco, se no poi ti viene l'attacco di cervicale, insomma, e siamo tutti un po' rattoppati, dai, però l'importante è sempre andare avanti e fare quello che si ha piacere di fare. Ma guarda, io non voglio fare la fine che ha fatto mio zio, che ha fatto dalla pensione alla sedia, infatti oggi che oggi dopo 4-5 anni di pensione a Giovanni non riesce neanche a guidare più la macchina. Assolutamente no, io sono molto attivo, io sono in pensione l'anno scorso ad ottobre e dirò che sto bene, mi sento bene e sono molto attivo, non sto mai fermo. Anche l'amica mia me l'ha detto, sei molto molto attivo, quindi non stai mai fermo. È meglio, perché se ti fermi sei perso, devi essere uscito, avanti già anni, già si è perso. Sono andato in bagno, lascia venire un tempo di rifondi. Ecco che resa mio, e mica sono un mago che ti vedo, cara. Ripeti. Eia, non so di cosa stavate parlando, non c'ero, appunto, ero in bagno. E sto parlando al più da meno, però praticamente che siamo molto attivo, che non sto mai fermo a fare una cosa e l'altra, perché mio zio si è arrugginito, ha fatto dalla pensione alla sedia. Gappa. E perché poi quando va in pensione non sai cosa fare, quindi ti metti a fare le cose, capito? Quando poi c'è campagna puoi farle, dai, e quando sei a casa non ti viene in gana, dovrei pitturare, ma che ne avuti. Io perché voglio fare quel lavoro lì, non so che pesante è già, e quindi non è per me, non è neanche per te, no. Ci vuole delle persone un po' giovani che non hanno questi problemi, che ho io, e quindi pago, non mi frega niente, ma voglio che sia un lavoro ben fatto, capite? Perciò dopo chiamo mio nipote, sedi per non faccio fare sino, se sta lavorando fine settimana. E ti fai fare un viaggio dalla moto, vai al mercato, vedo che c'è moto a Santa Maria. Sono con le moto che fanno i viaggi. Devi far fare i viaggi di cemento, dell'altra roba che ti serve. No, che chiama Francesco, il figlio Piero Drago. E mi piace per 30 euro, mi piace molto che lo mando all'Americo, hai capito? Tu penso per amore a mare, ma l'ha preso 50 euro perché è più lontano. Non mi prende sempre 30 euro, mi prende. Quindi, non c'è problema. Tanto vedi, quello che tocca la roba là, retro soldata, cemento, sabbia, ghiaia. Quindi. Vabbè, se trovi un attore, non sai cos'è, che devi sapere come lavora, perché una volta ho preso dei muratori, per carità di Dio, dovevo fare, allora c'era un tramezzo con una porta nel bagnetto del doppio servizio, e lo volevo buttare giù, lasciare solo il pezzo di sopra e magari rifare un'arcata e poi liberarlo, proprio lasciare la luce, e poi praticamente dovevo mettere un mobile con la velo, eccetera eccetera. Mi hanno fatto un casino qua, è venuto questo qua che dicendo che era pavimentista, ha fatto il pavimento, cazzo, e all'ora di pausa sono arrivato al lavoro ed erano risalite tutte le mattonelle in alto, e il dottore Fatto ha detto se faceva il calzolaio, se faceva il muratore, perché se uno fa il calzolaio deve anche saper fare, e così è il muratore. Lui mi ha detto, allora chiamo il pavimentista perché non è che lo sappia fare bene bene, cazzo, ha chiamato il pavimentista, ha tolto tutto quanto, ha lavato le mattonelle in fretta, ha detto guarda, vedo un casino che ha fatto il macetto va. No, ma a mio nipote c'è bravo perché abbiamo fatto tanti lavori già, ripeto, bravo bravo bravo, e poi meritevole perché non sta mai fermo, ci ha detto rimane seduto e non ti muovere che stai male, allora quel periodo non ero neanche operato, capito? Bene, ragazzi, sono le 8 meno di 5, io vado a preparare, come cosa mangiamo, già è quasi pronto, ma comunque. E mi alzo, spiego tutto e vado a fare carica batteria. Dai, ci sentiamo, mi ha fatto piacere, ma come sia tranquillo, eventuale ascoltone, salutone, pochi ma buoni. Ciao Carlo, ben sentito e ciao Gianni, alla prossima. Ciao ciao, fuori te da parte mia. Ciao ciao Tonino, buona carica quando la fai avanti. Ciao Tonino, idem, grazie della chiacchierata, già ci sentiamo alle prossime. No problem, siamo sempre qua in radio. Vai Gianni. Ciao ciao Tonino, ci sentiamo, dai. Sì. Sempre lavorando questo Tonino sta bubu. Siamo tutti, io 7 anni fa avevo approfittato di un periodo di chiusura dell'aeroporto perché avevano rifatto la pista, quindi avevano chiuso 20 giorni l'aeroporto, quindi ci hanno messo in ferie d'ufficio, più ci avevo altre ferie, mi ho messo in testa di rifare il pavimento di tutto l'appartamento e ho trovato un muratore disponibile, che questo era bravo, ha lavorato in tante imprese eccetera, di Uri, e mi ha detto prenditi tutto il materiale, quando hai tutto mi ha detto prendi questo, quell'altro eccetera, colla, non prenderne più di 10 sacchi, se li vuoi prendere anche 2-3 sacchi alla volta man mano che la finiamo, ho detto guarda, se tu mi dici che per fare tutto l'appartamento sono sufficienti 10 sacchi, io 10 te ne compro, poi ce ne è voluto qualcun altro, comunque questo veniva fine settimana, smantellava, capito? Rifaceva il massetto, mi ha fatto tutto l'appartamento piano piano piano piano e non me ne sono neanche accorto, solo che alla fine quando ha finito avevo dimagrito i 10 kg perché sali e scendi e portare giù e su il materiale, capito? In quel mese di lavoro ho fatto il manovale, capito? Ho dimagrito i 10 kg. E poi spostare i mobili, quando una casa è abitata, sì che non è abitata è un conto, ma quando è abitata ci sono da spostare i mobili, è un casino. Mia, poi mi ricordo da solo che mi facevo tutto quanto, in cucina ho dovuto levare tutti i mobili e prima ho messo tutto nel salone, quindi mi ha fatto cucina e doppio servizio, dopo ho fatto salone, corridoi e poi pian piano le camere da letto, e ovviamente poi come finiva una camera dovevo anche imbiancare, quindi alla fine un lavoro estenuante, però nel giro di un mese, diciamo, e una trentina di giorni abbiamo messo a posto tutto, non è rimasto più niente, neanche la polvere. Poi una volta che è tutto a posto ti dimentichi della fatica. Quello sì, dopo tanto lavoro almeno c'è la soddisfazione di vedere la casa come si deve, dai. Non che prima non fosse come si deve, però aggiornare ogni tanto fa bene. Sì, adesso dovrebbero iniziare gli altri lavori esterni, però con l'eco bonus 110%, ma penso che inizieranno a settembre, non credo d'estate. Ma non lo so, però ho visto che qua vicino a casa stanno facendo diversi di palazzi. E magari anche lì ti vanno all'interno, ti vanno all'interno perché cambiano tutto, cambiano le finestre, cambiano i cassoni degli avvolgibili. Sì, lo so, finestre, diciamo gli avvolgibili nuovi mettono e quindi un po' di disagio anche dentro casa te lo fanno. E un po'. Fanno andare delle squadre così operai, sì, sette operai, e vanno uno in ogni stanza. Immaginati tu. Vabbè, anche io mi sa che chiudo adesso che è ora di cena, è quasi tutto pronto, per cui nel caso ci sentiamo più tardi o domani, Gianni. Ehi, allora va bene, dai. Ci sentiamo Carlo, dai, buona carica quando la fai e saluto anche tutti gli ascoltatori. Buona serata a tutti, ciao. Ciao Gianni, alle prossime, ciao ciao, grazie della chiacchierata. Niente, un piacere. Andiamo, andiamo, che tagliamo! Cosa vede, cosa vede? Pompetta! Dimmi tutto! Questo è appena arrivato, un attimo! Fai con comodo, fai, non c'è problema! Allo, allo, allo? Pompetta! Alberto, come va? Bene, bene. E come stai uscendo? Con cosa? Con 3.900 e le MPG più 4, perché? Mi sembra che abbia una modulazione, boh, non lo so. Occupa la 100, boh. Aspetta, forse studiamo questo. E c'è una roba sopra la colonia. Mi si è bruciato, cioè c'è qualcosa all'apparecchio, non bruciato, no. Adesso me lo devo sistemare una persona, vediamo cosa ne esce. Cosa che ti è bruciato? Mi hai bruciato quello che ho trovato io. Ah, cosa? L'87. Ah, no, 87, ho capito. No, l'87, l'Intec, mi stanno problemi, ma è qualche cosa di staccato, lo devo vedere, lo devo, capito, cosa cazzo è, che cazzo gli è successo a quell'apparecchio, capito, vediamo cosa è successo, ma il quadro Intec, il quadro 500 è, non lo so, il 340, c'è soltanto Intec, ce ne so. L'Intec 550 Power. 550 Power? Non lo conosco questo, no. Oh, se mi così mi lascia perdere, non me ne può fare nemmeno. No, è vecchio. Intec 550? Lì. Cazzo, non l'ho mai visto la verità, non me lo ricordo. Addirittura io ho visto oggi su internet un Galaxy con frequenzimetro rosso, mai l'avevo visto, mai. Prima è stato un Echo, ma molto molto prima è stato un Echo. Ce l'ho più di 10 anni, ce l'ho. Boh, non l'ho mai visto, non mi è mai capito per mano a me. Mi sono capitato di tenere 9, le FT250, le FT7B, 140, 70, quel modello lì, di tutto mi è capitato, tranne che con l'apparecchio, addirittura quegli apparecchi che una volta li mettete agganciati al muro come il telefono, ce l'hai presente, c'era la cornetta e lo agganciavi al muro e parlavi a baracchino. Però quello non ho mai sentito, quello che hai detto tu. Boh, non è gioco, avrei mai visto tu forse. Cavolo, e te lo mando la foto. Mandami la foto e poi ti sa di dire qualcosa al limite. Ah, non so cosa dire. 10 anni ce l'ho con l'apparecchio, più di 10 anni, primo proprietario. Forse non mi è mai capitato il 550, quello che ti dicevo. Quindi tutto mi è capitato, il 500S, FM, il 600X, poi sono stati dati Intec, eccetera, eccetera. L'MVP, poi gli altri, quelli tutti quanti digitali, MB4, eccetera, eccetera. Ma questo non l'ho mai sentito. Ti mando la foto, ti mando la foto, lo vedi, adesso vediamo di metterla a posto. No, girate il coglione, mi. Perché? Non gira mettere il coglione, cos'hai? Non esce nel radio, cosa c'ha? Come schiacci, no, non esce. Ma cioè, se c'è un oratore è proprio per quello. Sono solo i finali, già lo sai, 23-14, 20-78, e la resistenza che c'è tra uno e l'altro. No, lì si sono messo un bici, so. Allora monta le cose, si monta. I MOSFET è monta. Cappa. Ho capito. Il 1307 dovrebbe essere. Andiamo Catariano. Avanti, avanti, Antonio. Avanti, avanti. Ehi, ehi, Lu. E allora? Andiamo, andiamo. Monta il Mitsubishi, vedi che Mitsubishi. Mitsubishi, Mitsubishi, diceva quello. Mi prendere contro il cuore, non so, Mitsubishi la vera. È come comprare i finali del lineare che ho io. 6771, già lo faccio da fare, Motorola. Mitsubishi, mi ha dato mi cresci. Gana. Che stai invecchiando, beh, sono di Bugana. Cazzo, non sta più. Tu, ma culo, ma manda più. Ma ci fai più la pompetta. Ma qui sta già funziona un po', blua. Mettici un guanto dietro le palle, vedrai come ti solleva. C'è scritto su internet. Quanto? Cazzo un guanto? La bucaria. Uno ha scritto così, mettici un guanto, stringi, in pratica blocchi, cosa ha detto? Aspetta, blocchi il sangue di lì, dopodiché dice, a un certo punto dice, si ingrossa e sale. Vabbè, poi c'è quello che dice che in pratica ci vuole la crema delle stazionarie per il baracchino. Ci metti quello e sale, cazzo. Bubu, niente, via. Cazzo di auro, bubu. Te sei informato bene, bubu. Ecco, fa parte il suo gol, che te lo tacca in culo. No, ogni tanto sento una e mi fa ridere. Poi c'è quello che dice mangiare, dice roba di castagne, roba del genere, eccetera, eccetera. E c'è di tutto, guarda, se fai, se dovete a tutto quello che scrivo su internet, ti stai suicidando, ti stai cazzando a un certo punto. Guarda, ne so io. Ogni tanto ne esce una cosa nuova, poi chissà di un guanto non sa via. E tutto scrivono, lo sto dicendo. Poi devi mangiare castagne, poi devi mangiare quello, devi mangiare frutta secca, e dopodiché devi mangiare verdura, eccetera, eccetera. Poi devi prendere non so che cosa, non c'è bisogno di fargli medicinale, e ce n'è poca di roba strana. Cioè, ma no, sai cosa, a un certo punto si impenna. Secondo loro, sì. Secondo me, guarda, ci batterebbe solo normalmente una cosa, come fanno le torture i tedeschi, cazzo. Ti metti una corda, sai come sale il muscolo? Con la corda dritta. E li vedi pure, non sono l'altro. Ah, mi ha detto che deve fare la cura con la banana. Le banane fanno stringere, lo sai. Se vuoi, se vuoi stare stittico, se vi ha diarrea, quanto sembra, dice le banane, mangia banane e stringe. E da me, cazzo, io credo, cazzo, se gli metti una banana in culo di salsiccione, ha voglia che stringe. Non te conosci, intende? Sono guapo. C'è di tutto, guarda, di tutto di più. Se tu vuoi dare retta a quelli, stai tranquillo, sei morto. Ma quando mai? Poi c'è la dieta per dimagrire, cazzo, quella di lusso, cazzo. Paprika, limone e cazzo, non mi ricordo cosa gli avevo l'altro. Tu immaginati la paprika che già è piccante, cazzo, più limone. E le modulli come cazzo le fai? In sangue le fai. Così si incendia l'ultimo scappamento. No, se tu le vedi a internet se le mettono tutte, sta tranquillo. Meglio andare da un medico che è meglio per fare le cose, sta tranquillo. Se uno c'ha qualche problema per dire come si chiama, più che altro al cervello. Non è che sia al pisello, è il cervello. È il cervello che deve, hai capito? Dare un impulso, dopodiché succede roba di non so come spiegare la verità perché non sono medico io, lo sai, ma comunque sia non è che le medicine fanno niente. Il Viagra sì, ti aiuta, è quello che ti aiuta a farti venire un infarto e basta, non ti aiuta altro. Una volta che sei arrivato dice ciao mi lasciami prima di fare l'amore, lasciami il testamento, siamo a posto. Ma magari dice che ce n'è anche uno più potente addirittura di queste cose. Non è basta un pezzettino di zigazzo che tutta la notte da leone basi. Sì. Lascia perdere le medicine, è meglio ormai non prenderle. Ci sono le cose se le vuoi avere. Basta mangiare un pochettino di peperone ogni giorno e poi ci sono tante altre cose che poi ti mettono nella dieta, già lo sai anche tu. Non è che devi stare cazzo con Viagra, ma stai scherzando Viagra. C'è Viagra, eccetera, eccetera. Così cazzo ti scende un infarto, ti scende, ma allora vai. Se c'hai c'hai magari i problemi cazzo di cosa, di pressione, sei morto, sì. Luca! Ehi, sono qua, mi sto pulendo. Cazzo pigiama, ma sono accorto, forse qualche macchina di silicone. Cazzo riesco a levarlo, peccato, è nuovo il pigiama. Ma quello lo sto usando, ma fa poco ancora a me. Che mancato di cosa? Di. Che silicone? Che cazzo non so, vabbè, e ci vuoi fare? Non so che riprende roba e ti si attaccando. Cazzo mi sono cagato in alto, mi sono capizzato. Non l'ho preso fuoco la verità, si è staccato il cavo, Ha già se ne intende giarra un'ora, ma cosa si accontenti? Non ho capito. Si intende, c'era midente, si intende, ma ho accaparra di accesa, c'era. Ah, ma il televisore che c'è in camera letto di Simona? Perché? Ah, pure in camera da letto ce l'ha, no, ce l'hai nella postazione là, non in camera da letto. No, quello della postazione mia è spento, quello è in camera da letto, quello che senti adesso, figurati. Ah, ho capito, te l'hai messo anche in camera da letto. Cazzo, perché non hai visto il televisore in camera da letto mio? Ma sei scemo o cosa, cazzo? Lo sai che c'è il televisore grande, quello 32 pollici grande di là, e io invece qua ce l'ho piccolo, il televisore. Hai capito? tutte e tre sono fatte più BMI. Uno, il mio premio, a parte quello di cucina, che è quello non è smart TV, ma un televisore normale, ma comunque altri 5 sono per esattezza. Mi sono dimenticato l'altro, che non uso quasi mai. Portamene uno, Antonio. Te l'avevo anche regalato uno, guarda, la verità. Perché non si voleva nulla, cosa cazzo era, lo sai? E l'antenna centralizzata. E volevo in camera da letto, in camera mia, con quello bianco, e in cucina non avevo niente. E in salone invece sì. Stavo per regalarlo, la verità, perché sempre pensavo che fosse ripetoso, invece un cazzo, è ripetoso l'amplificatore, capito? Qualcuno ha agganciato la limitazione per l'antenna e quindi ha incendiato la centralina. C'è gente guasta. Infatti adesso in cucina vado benissimo con quel televisore, con quello nero. Quindi figurati, poi c'è un cameraccio, un quello bianco, che hai visto anche tu, e poi dopodiché in camera di Simona c'è quello più grande, che mi considero benissimo. Poi c'è quello piccolino, quello che uso per fare intensi antenne satellitari, che me lo porta appresso, oppure terrestre, me lo porta appresso, è piccolino, è un 12 o 14 pollici, me lo porta appresso con il ricevitore digitale terrestre, mi faccio la centratura. Poi per la parabola c'è il ricevitore con la modello vecchio, eccetera, eccetera. Ho preso anche due strumenti, ma non devo più nulla perché non le faccio, non salgo più i soprattutti a fare centrature che non me le fate più nulla per 50 euro. Lo so, Antonio, hai ragione. No, io cioè, me ne prendo uno così, stavo cercando uno. Ma mi serve più caldo, mi serve come monitor, capito? Allora, sai quando l'ho parlato con io sono salito su qui a quadrato al Conrad, ho preso il televisore e anche come si chiama il telefonino, avevo speso 220 euro, figurati tu, ho preso il televisore bianco, quello che hai visto tu in camera mia, col telefonino l'ultimo, quello che ho io, che è l'Alcatel, figurati tu, in offerta era. Ma se vai di chiedi, ci guardi cosa c'è in offerta e ti do detto te lo prendi uno, questo non ho cazzato i televisori di lì. Ma senza niente, un 32 pollici mi ha detto l'ultima volta 160 euro. Cazzo, io avevo pagato 120, figurati, te lo sto dicendo, più il telefonino. Io sono andato da Gran Vitalini al quadrato, mi sono portato il televisore appresso e anche il telefonino, la vita. E sono rimasto tutto contento, tranquillo, grazie a Dio non è mai successo niente. Non c'è bisogno di andare a Cosa, Città Mercato e andare a Casino, basta andare lì al quadrato. Ti fai un giretto, ti fai dentro quel supermercato e ti guardi i prezzi, ciò che è, ti prendi. Io ho preso lo smart TV, non è che abbia piato un televisore di merda, e lo smart TV c'è attacco satellitare, c'ha tutto, c'ha l'ingresso per poter dal telefonino comandare in pratica il video direttamente al televisore, basta avere il codice d'ingresso, dopodiché si è a posto. Roberto, adesso non ho aumentato i prezzi, prima io me lo ricordo che c'era quei prezzi lì, c'era, adesso hanno aumentato pure i prezzi, 180 euro borsa smart TV, perché ho chiesto, un 32 pollici, il più meno che costa, e hanno aumentato i prezzi, hanno aumentato, ti dico la verità, e io questo qua l'ho pagato molto di meno. Da l'ultima volta adesso, uff, ti sono alzati, cosa hai preso tu, l'Akai? No, non è l'Akai mio, l'Akai ce l'ho in camera da letto, questo qui aspetta, lo dico subito, quello che chiama l'Akai. Nordam, una cosa del genere. LG, quello che ho preso io, bianco. Ma comunque adesso hanno aumentato i prezzi, perché ho visto anche sul computer ci sono ammazzate e prima buttavano il mio arco. Domani mi faccio un giro lì alla, come si chiama, al Conad, e poi vediamo, ti dico i prezzi, va bene, così tipo ti rendi conto, se ti conviene vai lì e ti riprendi, ti faccio un giretto, mi fai, tanto io ho la carta, quindi a un certo punto c'è lo sconto. Aspetta un secondo, arrivo subito, mi sta chiamando Simone. E beh, fatto hai. Andiamo, andiamo, carta di euro. Ma più là mi voglio prendere un tema TV anche così, me. Molto si viene a spendere, mi stessa la cagliemia a me. Ho capito, Anto. Una TV così, non voglio prendere più là, giusto per... Per vedere se ho gosso. Una TV così, giusto per non che ti capisco, Anto. Beh, sì, karaoke. Beh? Mi sa che mi prendo una TV che non costa neanche tanto. Per vedere se... cosa, capito? Lo schermo, capito, Airo? Una TV per fare karaoke, giusto? Ehi! Ah, io ne ho una, tu, ma non te la do perché ora me la tengo di scorta. Capito? Non te la do, la tengo di scorta. E una TV, a pochi di anni non la ciappi, una TV così, super scarsina, la trovi a 150, 170 euro, 180. E una TV così mi serve a me. Nuova, poi se la trovi usata, anche un centinaio di euro la trovi. Ciappa, mi serve così, mi serve. Una TV, perché qua non ne ho messo TV. Se la biglia il culo. E dove poi l'hai messo? Dentro in camera. Ah, io ce l'ho. Sì, qua. E te la accendo, me la guardo. Mi metto... Non so che posto, ho messo l'auto spegnimento, vediamo. Sì. Oh, già ho messo, vabbè. E si spegnerà solo. Praticamente sono 2 ore. No. 4 ore. 4 ore, 240 minuti. Mi pare che vedrà una pugliata di suo mao, mi pare che ne ha avuto un tempo in garage. Ti ha venuto? Che abbia la sacco HDMI? Eia, non va per il comando, ma... Che marca è? La pugliata in chi viene fuori dalla condizione, ogni tanto mi si spegne il cazzo, mi ha detto. Perché gli ho messo quella più grande, mi pare che la di chi si inseri. Caccio, me ne abbi come ne abbiamo in garage. Qui la vendita? Non va, come te dite, non va, ma... Non c'ha... Cazzo, non mi viene adesso. Non c'ha la stampa. E vedi che marca è? Forse c'ho qualcosa io, forse. Se no il bone è un coso, un roccio il bone, da regge. Allora, ma trovi sempre casa tua dai visori, ti serve? O ti serve per lavoro, proprio da trovare presto? Per lavoro. Ma ce l'hanno loro il televisore, Antu. Ma può capitare che non venne, cosa vuoi? Ah, vabbè, sì, è vero. Ce la sono, mettono tanti TV nel mio gruppo, cercatela una. Non so. Mi pare che ve ne abbi cura per il tempo che ci funziona meglio la carta di televisione. E che mi vuole dare la Ianna. Ho capito. Mi pare che ne ha puro. Vediamo. E se il cazzo lo accendi e per il fuoco, come la metti? Che cosa? Quel televisore adesso lo accendi e prende fuoco con il cazzo la metti. Ah, non fate niente, no, ma magari si spegne per qualche cosa. Ah, ti serve più che altro per fare karaoke, ti serve un televisore così grande. Ehi, se capita locale, non ce l'hai, cazzo, ce l'ho. E cazzo, o magari di dopo giorno ogni tanto ti spegne, sarà giù con un baracchino. No, sai cosa fai invece tu? Lascia perdere adesso i televisori. È molto meglio. Ti prendi un bel... come si chiama quella... adesso mi viene in mente il nome, Luca, quella pare che appendi in pratica. Poi puoi mettere anche su una teca metallo, tanto per dire, come puoi mettere un lenzuolo e il canocchio lo fai lo stesso, non è, cambia molto. Ma cosa si difende che la TV vuole con l'HDMI, gli attacchi l'HDMI al computer e stai viaggiando? Funziona così, funziona, già c'era il proiettore, non oggi compresa ancora nulla, però c'era il proiettore, devo portarlo da babbo a vederlo. Tu devi proiettare sul muro, un muro bianco, capito, per fare karaoke, un muro giallo. No, ma preferisco quello, io sempre cosa lo uso, quello. Faccio il programma, le faccio per mettere pubblicità. Ho capito. Non lo so, vedi te. Cioè, insomma, a me trovo tante TV, Anto. Poi, non lo so, ma troppo grande, 32, 40. 32, non mi bagno il mio puro, grazie. Perché qualche sera tardi, lo dico che quando si dormite, per un barone, santa... devo fare in garage. Ma guarda che c'è a LED però. Sì, no, no, c'è a LED, cazzo. Se di quelli leggeri è a LED, ma se li visi pesanti al plasma. È leggero con la piuma. Ma voi intendi, cazzo, ho rubato il TV, cazzo, Ah, già dico che se poi vengo da te, cazzo, per fare il karaoke lo vedo. Il karaoke lo fanno anche a battonate. Ma cosa ne comprendi, sono Maurizio. Ah, futtidini, fregatene. Guarda, forse è meglio che avresti i figli, quello che ti ha detto Luca, che è meglio. Metti un lenzuolo che prima, bianco. Perché secondo in quale circolo vai, non puoi portarti un 40 pollici, ma stai scherzando, e lo lasci lì, magari la notte lo, entrano i negri, oppure i rumeni, aprono tutto e ti portano via la roba, lascia prendere che poi ci rimetti, a tutti i dimmi. Tu devi fare solamente... Ma cosa pensate visto che sia Marco? Ti porti via tutto, basta, non devi lasciare niente. Però se gomma come io ho finito la serata che arricchio tutto e me ne sto candendo me. Vede voi pure da Costantino e lascia te lo prendi domani, domani cosa? Io poi tutta la rega tutta a casa, poi ci mi auguro. Capire un circo, la buca se mi fu una roba a me, che me la paga, tu me la paghi. Io non te la paga nessuno, sì, il discorso è quello. Comunque se è a me. È meglio, guarda, adesso gli unici, quel tipo di attrezzo che stanno facendo non è il televisore, che cazzo, quel monitor lì che tu fai un segno ferro bianco, è molto meglio, la verità, si può pensare anche in casa la verità, è molto meglio del televisore, cioè è molto meglio, non è come quelli di una volta, cazzo, che pesavano 15-20 kg, cazzo, dovevi fare una staffa di quelle grosse, sono piccolini ma sono in HD, insomma, e si vedono veramente bene qua, sono fatte apposta per installare in casa. Se tu lo vedi una cosa lì, guarda, rimane qua, è traziato, rimane su questa situazione qua. Non lo so, vedi tu, il discorso è quello. Per fare calavo che guarda, è meglio che prenditi uno di quelli e sei tranquillo. Secondo me, poi non lo so, a un certo punto. I soldi sono i tuoi, non è che sono i miei, quindi. Antone, se lo faccio con quello, siccome molte volte quando fai il karaoke di la saluta attesa, o usi luce, usi cose, cazzo, non mi vedi nulla, un peso hai, perché ti dà fastidio agli occhi, lascia perdere quello, quello lì ho solo la beva, pigli un coso, lo boni, per esempio giri le pubblicità e basta, perché ti dà parecchio fastidio, ti dà, lascia perdere, invece la TV si vede bene, capito? Ah beh, usavo ti dica, vuoi prendere una TV, prendiamo una TV. Quindi a un certo punto il discorso è quello, quindi un 40 pollici o 60 pollici, quello che è, il problema è portato a casa, ogni volta cazzo devi stare con questa cosa grande, caricatelo in macchina, fatti portare a certo punto. Attrezzatura, poi fate il modo di portare a casa, è un fogliaio di male, capito? Non so, vedi tu, sono cose tue, io ti ho dato solamente un consiglio. Secondo me, vabbè, se vedi 82 poi ci ritrovi quanti ne vuoi, la verità, però il discorso è quello. Siccome sono tutti quanti metro ciechi, a un certo punto vogliono un monitor da 40-50 pollici in modo da leggere. Ma no, poi c'è quello che ci ha visto anche quando siamo andati noi due, in quel locale, a un certo punto che pigliava la mina, pigliava la cazzo, a volte sbagliava. La cosa va bene con 32 pollici, va bene. Non c'è bisogno cazzo di buoni all'acqua dell'aria, capito? Va bene anche 32 pollici. E devo mettere quei colori giusti, se no ti singruglio già nei rocci. Non ce ne vuole viola, non ce ne vuole niente nello sfondo. Non come ti ha fatto l'amico mio, cazzo, che dava un fastidio tremendo, dava. Cioè, deve essere bianco, cioè deve essere nero e bianco le scritte, o se no devono essere azzurro. Qualcosa azzurro e bianco, cioè si deve vedere bene, si deve vedere quando uno canta. E tu cazzo un carotto dopo la fotografia azzurra, ha poco tanti affascidi o me. Vabbè, cosa vuoi dire io? Non so fino a che ti convenga. Se c'è il giro dei locali che ti prendo per fare questo lavoro qui, ti conviene e ammortizzi la spesa. Il discorso è quello, e io lo sai anche tu. Non è che puoi stare in un circolo, non ci vede nessuno, a un certo punto quello ti dice, ascolta, io i soldi non te ne posso dare, non mi incassato niente, cosa fai? Ti riporti tutto indietro. Quello è il discorso, capito? Purtroppo in questi lavori qua adesso è un casino nei circoli. Non puoi rischiare. Vabbè, se vuoi rischiare meglio per te. Se ti va bene è bene, se no fai come hai fatto con l'altra, visto hai come è successo. Quella che a un certo punto sono andato, fate tutti quanti, cazzo è successo che è finito tutto per una settimana. Quindi purtroppo in questi circoli qui è un casino. Arrivata quell'ora, mi ha servato, mi ha servato. E ora messo un bel diversamente di quello che stai dicendo tu. Uno quando vede gente in gamba diventa un luogo, non succede assolutamente niente. E perché la colpa è del gestore e delle persone. Io ti posso capitamentare una di notte, che intendi? Ti traventare in domani. Però se c'è gente rispettosa che viene lì a cantare e non rompe le balle, ed è scelta, selezionata. Tre cose non succedono, oltre che ti amano, boom, brutale, merda, ma cosa stai dicendo? Ma cosa stiamo dicendo? Io se trovo un rompiballe lo prendo per il fondo del culo, ma non proprio perché faccio la serata, no? Da prima con i fatti che si gode, da prima di esserci anche le cose, il primo che fa del dopo, mi dà due calci in culo butti fuori, finito. Cioè, io ti faccio vedere Giuseppe, il ragazzo è da un studio di nuda, hai tu pure un po' questo stravagante, mi di carattere, se rompi le scatole diventa strano. Non succede niente, perché? Perché la gente se l'ha selezionata, due calci in culo e via, perché se no scende il genero e poi prendono colpi. Cioè, la gente va selezionata, non fa entrare chi si gaggini, chi si gaggone, così. Sono andato anche in via Sardegna, per dire. In via Sardegna tutta gente in gamba, tutta gente che... tranquilla, perché? Perché la gente è selezionata, non viene gente a farra d'ora, gente rompi balle, c'è gente come si deve, cioè. Quelli, due cacci culo e via, il locale devi pulirlo da prima, anche prima delle serate, se tu lo pulisci da prima rimarrà sempre pulito. Lo so, guarda che qui ieri sera avevo fatto il karaoke e c'era un televisore a metà, c'era un 14 pubblici, figurati tu, ci sono messi a cantare tutti e davanti al bar e sono andati fino alla governmenta, figurati tu, c'era il microfono, il coso, il mixer, il karaoke, e c'è le, come si chiama, tutto c'era, non mancava niente. Quando si è fatta la serata, poi basta. Come fa che addirittura nel locale suo la pizzeria, hai capito? Tutto lì. Il discorso è quello, non è che ci voglia molto. Magari, non lo so, io sto pensando, però bello che non è che non puoi spendere cazzo un sacco di soldi per che cosa, per fare cosa, e dopodiché, siccome lo sai che siamo il tempo che siamo, a un certo punto spendere 10.000 euro per fare una cosa come si deve non va più bene. Quindi bisogna accontentarci di quello che c'è, il discorso è quello. Poi magari in seguito si faccia tutto punto. Che spagnolo, roba, la guerra. A rubasso, a rubasso. Allora, facevano una volta che si chiudevano le vie, facevi il, quanto posso dire, invitavi, ok. Cammina che è cotto. Eccetera. Allora era bello, era veramente bello, guarda, me lo ricordo veramente bene. Qua giù avevano chiuso la via, guarda. E addirittura davano i panini con salsiccione gratis, compresa anche la birra, figurati tu. Adesso purtroppo non si può fare più un cazzo, sono cambiati i tempi, speriamo che vadano in meglio, almeno si riprende tutta l'attività, perché sono tutte le persone, tutte messe male, attori, cantanti, eccetera, eccetera, hai capito? A riprendersi, ce ne vuole, non è più come prima. No? Caramba, sempre la gente, bisogna sempre sciuvaralla, ma se non vuoi avere casini, bisogna sempre sciuvarare la gente, ma qualche notte ci vado al gasato però, qualche notte già ci vado. Via Tempio, perché voglio vedere proprio com'è. Al ristorante, quando c'è qualcuno, sì. Ieri l'ha fatto qua invece, lo sai. Ieri ha fatto la festa lui. Era lunedì, e in pratica l'impite era chiuso, l'ha fatto qui la festa. Si è fatto il compleanno, si è fatto qua ieri sera. Ha chiuso alle 9:30 il coso. Il mamma, non ce la faceva più, guarda, mi ha detto. Non ce la facevo più, dice, sono arrivato a casa che non ho straccio, mi ha detto. Quindi figurati tu, hanno cantato qui, hanno fatto il karaoke, eccetera, eccetera. Con televisore da 14 pollici, mi dico quelli piccoli, avevi visto quelli piccolini, non è che hanno usato chissà che cosa, ho usato quello e hanno cantato. Lo so, lo so. Specialmente alle 9 di mangiare. No, alle 9:30 di sera, non alle 9 di mattina, no. 9:30 di sera, da mezzogiorno alle 9:30 di sera. Hai capito? E anche Alba le sta facendo queste serate così a Badimanna. Costantino ha fatto dalle 11 fino a... dall'11 del mattino fino alle 9:10 di sera. Vabbè, al limite se giro da Vinci, ti fai il giro dei circoli, c'è quello di Canica che è bello la verità. Vai lì, è grande, non fai altro che fare una bella serata, fai il karaoke, eccetera, eccetera, e guadagni da lì. Dopodiché magari trovi un altro circolo, l'altro quello che c'è in via Milano, la stessa identica cosa. Dici guarda io ho questa roba qui, voglio fare un karaoke. Tanto ci guadagno e ti metti d'accordo insieme a lui. Poi magari un altro circolo, eccetera, eccetera. Ti metti da parte, ti metti d'accordo ogni giorno, un circolo ognuno e ti fai i soldi. Già lo so, adesso devo scaricarmi tutte le basi, adesso il computer e via. E poi sono pronto. Un po' di ore di musica, sono molti tanto prendono facendolo così, allora da loro in cambio cosa, è che per non romperli i coglioni. Sai cos'è il problema? Ogni circolo ha un tipo di musica diversa, c'è quello che vuole la musica antica, vecchia, c'è quello che vuole la musica così, c'è quello che vuole la musica qua, e quindi si trovi cazzo incasinato, a un certo punto di sempre il cazzo stare a perdere tempo, quasi un'ora e mezzo, devi arrivare un'ora e mezzo prima a mettere tutti la strumentazione, i cavetti, eccetera, eccetera, puoi fare le prove, eccetera, arrivi lì. Tanto per dire, ecco quanto ci guadagni per fare una serata, non è che ci guadagni molto, la verità. Il discorso è questo. Sì, io già faccio due scelte, non ti preoccupare. Io se me la paghi di manco, per le casse più piccole e il mixer più piccolo. Se me la paghi bene è mixer grande e casse più grandi, vinto di prima scelta. Non è che attenzione, non è che non vanno, però pago tanto già a regalare roba migliore, se non mi paghi. Se ho capito, ma il ragionamento non vale la pena quello che stai dicendo tu. Cioè, casse piccole, per un circolo piccolo, casse grande per un circolo grande, non vale assolutamente niente. Tu in pratica, tu fai la tua serata, dopodiché se sono casse piccole, casse grandi, a te non te ne fotte nulla. Basta che loro siano contenti, tanto il circolo, tu ti guardi quanto è grande il circolo a un certo punto. Ci metti le casse che ci vogliono, intanto è utile che metti cazzo le casse per dire da 300-400 watt, quelle che sono, quando il circolo magari il cazzo neanche, non ti posso dire, 140 metri quadri, non deve fare niente. Tutto quello che è discorso è tutto, ti fai i calcoli, ti fai. Dopodiché, una volta, sei a posto, inoltre mettere le casse che fanno che fanno vedere che cazzo, come il telefono, il tipo non sente un accidente. E come è successo una volta a me, quando sono andato dai cinesi a mangiare, la verità perché è successo così, c'erano in pratica le casse ben alte e io non riuscivo a parlare cazzo con quello che mi diceva, dice cosa vuole mangiare? E io ho detto, mi dia una bistecca, e quello ha detto, cosa vuole una bistecca? E io ho detto, no, mi serve una bistecca. A un certo punto ho detto, ascolta, faccio una cosa, ho detto, o mi abbassa con l'amplificatore, se no ho detto, sei di più, me ne vado, dal tavolo, a un certo punto. E se ne va a culo, lei che questo cazzo di amplificatore con la musica che c'è a manetta. Allora ha preso l'abbassato, allora ho detto, guarda, mi si è messo una bistecca, ho detto, cucinata bene, ho detto, basta, non voglio altro. Più, ecco, una bottiglia di birra, eccetera, eccetera. E tra l'altro volete una pizza, eccetera, eccetera. Non ci sentivamo in pratica, né io, né con l'altro, che eravamo neanche a 2 metri di distanza, figurati tu. a un certo punto cosa devi fare? Vai lì il cazzo che ti fa vedere che cazzo comunque ma scherzando cazzo, diventi sordo cazzo. I cinesi hanno fatto così, mi sembra, adesso mi ricordo se era 188 cosa cazzo è. Quando cala lì, ma comunque sia, non ci sono più andato. Quando tanti merda. Devo sentirsi bene il suono. Ma guarda che io con due casse più piccole ti faccio vedere che un locale grande si sentono e come, non ne ho bisogno di mettere le altre. Non è gussino. Ma se è un po' che devo un attimino fare una cosa. Lo prendi tu. Ma infatti. Casino, certo. Guarda, l'unico modo, cioè l'unico punto dove avevo un bel suono, lo sai dov'è? Lì al centro storico, dove ha fatto una fotografia Antonio, lì è in pratica la volta fatta così, risuona ed è perfetta, anche con pochi watt la verità. Poi sotto di lì c'è una cantina, c'è cazzo, quel doppio di quella lì, se la fa la discoteca lo sai come esce, perché io l'ho visitata quando ho fatto l'impianto dell'antenna TV e anche elettrico, quindi so come è fatta. Infatti sotto di lì è una cosa, se fa una discoteca è una cosa di lusso, ne esce, ti sto dicendo. Oh, yeah. Vabbè, ora ci vuoi fare, qui troppo. Qui troppo, altro qui troppo è. Dipende tutto dall'insolazione, i muri, eccetera, eccetera. Sotto di quel ciclo dove lui ha fatto la fotografia, ci sono la bellezza di... Cosa ti posso dire? Io l'ho visitato, ci sono 600 metri quadri di cosa? Di ciclo lo puoi fare tranquillamente. Solo discoteca qua, sotto. Scendi giù con le scale. Come lo dicevo? Fai l'insonorazione, non sai come senti la musica, davvero, ci fa una bella discoteca di là sotto, ci fai. Il problema è che ci vogliono soldi a farla, perché in pratica rimane sotto il piano stradale. Fatto ogni cosa che vuol dire di là, non so come fa questo, ogni cosa. Insomma, io ho fatto l'impianto dell'antenna TV, io so come è fatto, e anche l'impianto elettrico, quindi a un certo punto, perché non lo sapevo come è fatto sotto. L'ho visto, perché è veramente bello. In pratica, da lì sotto ci esci nelle case... Tanto domenica ti sei? Cancello dell'hotel. C'è un cancelletto lì, entri dentro. Infatti quando dopo di che scende giù, ma è isolata quella cosa, non è una cantina umida, capito, è isolata, veramente fatta bene, lì, fatta la discoteca, ti sto dicendo, sarebbe insonorizzata, qualcosa, sarebbe stato un bicio, sarebbe stato qua. Il problema, più che altro, sai cos'è? Gli scarichi fognari, perché rimane sotto in pratica di 5 metri, sotto la pavimentazione e c'è in corso Vittorio Emanuele, il discorso è quello lì, tutto lì. Non so, ci vogliamo un bel studio, Antonio, vuol dire, se uno vuole fare una cosa fatta bene, vuol dire... Quello è ovvero un locale dove poter affittare per compleanni, cresime, cose così, con la strumentazione, capito? Ti pagani bene. Il locale c'è, se lo vuole uno, e lì a carica, hai capito? C'è il piano di sopra e il piano di sotto, sono tre piani sopra, quindi figurati tu. Sopra c'è il circolo e sotto, volendo, si può fare una bella discoteca, si può fare. Si sono unito tutto. poi di fronte non sa che c'è la pizzeria, che poi a me non esiste più, perché la Falcone nell'angolo, tutto in pratica roba della padrona tutta roba sua, fino a giù, fino ad arrivare a casa di Falcone. Certo. Io mi stavo avvocando alle 5.